In collegamento telefonico con Renzo Renzi, direttore artistico della settima edizione dell'Anfiteatro Festival ad Albano Laziale dal 27 luglio al 15 agosto. Renzo, ben trovato. Buongiorno, bentrovati anche a tutti gli ascoltatori. Raccontiamo cos'è, lo descriviamo questo Anfiteatro Festival. L'Anfiteatro Festival nasce nel 2012. Visitammo questo splendido sito archeologico che veniva aperto solamente in poche date, richiedendo l'accesso alla sovrintendenza, insomma al comune che gestisce il sito. Ovviamente è un sito meraviglioso di Settimio Severo, dell'anfiteatro che viene chiamato l'anfiteatro di Settimio Severo, e da 1600 anni circa non veniva aperto ai grandi eventi. È stato messo in sicurezza con un progetto con il Comune di Albano. Da allora realizziamo un mese circa di attività con eventi culturali, con danza, teatro, musica e soprattutto allestimenti operistici che sono la caratteristica principale. Realizzare un allestimento operistico oggi è diventato qualcosa di davvero molto, molto impegnativo al di fuori delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche. Sì. Gli appuntamenti saranno per tutti i giorni dal 27 luglio? No, non tutti i giorni, non tutti i giorni, sono 14 appuntamenti in realtà, ma apriamo con un nuovo allestimento del Trovatore di Giuseppe Verdi, una nuova scenografia, sarà un ambiente fuori del tempo, è una cosa tra una cava di roccia e un tempio megalitico, però i costumi saranno invece quelli dell'epoca, perciò ci saranno delle sorprese scenografiche davvero, davvero meravigliose, insomma particolari, ecco, di grande effetto. Poi ci sarà Gino Paoli e Danilo Rea il 28 luglio, La Bella Addormentata con una nuova coreografia di Luigi Martelletta, che è la seconda opera delle tre opere dei tre balletti famosissimi di Tchaikovsky. E poi verranno i Nomadi come unica data nel centro Italia, che celebreranno i 55 anni della loro attività, hanno fatto un doppio CD. E poi Ascanio Celestini con la ballata dei Senza Tetto, l'ultima opera della sua trilogia, e l'Orchestraccia, che insomma, è un gruppo famosissimo che tutti conosciamo, è molto divertente, molto bravi del territorio. E poi ci sarà una serata astronomica che ogni anno ospitiamo dell'Associazione Astronomica dei Castelli Romani, che è un'associazione molto attiva, dove gratuitamente faranno osservare il cielo e le stelle, insomma, della notte di agosto. Poi Moniovadia con un bellissimo nuovo spettacolo proprio le rotte mediterranee, una cosa molto attuale. E poi un altro allestimento operistico, due atti unici, Suor Angelica di Puccini, che è un'opera del trittico che viene eseguita molto poco, ma è un'opera meravigliosa, La Cavalleria Rusticana di Piero Mascagni, e un musical che ha vinto moltissimi premi invece, Nonsense, un musical davvero italiano ma divertentissimo, su delle suore scatenate, e Saudagi, che è un gruppo che vengono dall'isola della Réunion, un gruppo un'isoletta francese a nord del Madagascar, sono diventati un fenomeno internazionale, perciò siamo contenti di ospitarli. Poi l'Iliade, trascritta da Baricco con Plácido Rocarai, e il Soldato Spaccone, la famosa, ormai famosissima versione di Vincenzo Zingaro, che è il Miles Glorious, sono divertentissima e loro sono davvero eccezionali, di un livello altissimo. E la sera chiudiamo con Giobbe Covatta, con la sua Divina Commediola, una cosa molto divertente, però insomma, che fa pensare sui bimbi insomma, che in Africa insomma, vivono in condizioni davvero difficili, insomma, però fatto con il suo umorismo e con i suoi contenuti. Sì. È tutto promosso da Europa Musica, ce ne parli un po' di questa esperienza? Europa Musica è ormai diventata una realtà, un ponte anche con tanti teatri tra la produzione, soprattutto di opera lirica, nel centro Italia e in collegamento con il rapporto con tanti teatri europei. Attraverso corsi di formazione sulle scenografie, sulla sartoria, realizziamo nuovi allestimenti operistici che poi dopo vengono portati in Italia ed eseguiti in Italia e in tutto il mondo. Certo, è con grande difficoltà in questo momento perché gli enti locali, anche le regioni si sono unite in questo progetto. Beh, purtroppo con gli ultimi accadimenti delle commissioni ministeriali che hanno tagliato moltissimo, escludendo nel teatro, nella danza, nella musica, ma soprattutto hanno cancellato completamente in Italia la lirica ordinaria, che è una cosa che non era mai accaduta da quando il FUS è stato istituito. Praticamente è stato cancellato tutto ciò che esclude dalla lirica, che non viene fatta nei 14 teatri, nelle 14 fondazioni lirico-sinfoniche, praticamente non esisterà più in Italia. Questo è un grande problema sia per il pubblico, ma anche per chi studia nei conservatori, che non avrà più l'opportunità di entrare in questo settore, ecco. Renzo, c'è un sito internet, una pagina Facebook di riferimento? C'è proprio un sito Anfiteatro Festival dove si possono vedere tutti gli spettacoli e gli approfondimenti. Allora, ricordiamo l'appuntamento con la settima edizione di Anfiteatro Festival ad Albano Laziale dal 27 luglio al 15 agosto. Un saluto e un ringraziamento al direttore Renzo Renzi. Renzo, un saluto, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie davvero, grazie tantissimo e spero di incontrarvi nel meraviglioso spazio dell'area archeologica.